Parte di Rock Legends, come sempre Gianluca microfono, e lo ricordo, ospiti loro, in questo caso rappresentati da Emanuele, che ora ci faranno ascoltare alcuni brani del loro disco Rabbia e Sole, come ad esempio il primo che abbiamo sentito, titolo? L'Eroe, sicuramente un brano duro, importante, che con il quale abbiamo cominciato stasera, ma che è anche il primo della scaletta della tracklist del disco, e è una storia di tossicodipendenza di una persona che me l'ha raccontata e che è realmente esistita, e io sono stato particolarmente segnato da questo suo racconto, e ho pensato di farne una canzone giusto per portarlo anche come monito a me stesso e nei confronti delle persone che amo. La vostra esperienza in sala di registrazione, quali idee musicali che hanno dato vita a questo nuovo album, come sentite di aver lavorato questa volta in virtù del fatto che avevate il supporto di un importante produttore? Questo ci ha permesso di essere sicuramente molto sereni, abbiamo rispettato, e lui ha rispettato le tempistiche di produzione, i nostri tempi, quelli che erano i nostri momenti di ritiro in sala prove per poter creare. Gianni Herrera, il nome del nostro produttore, ci ha aiutati tantissimo a trovare anche la nostra identità, ci ha cresciuti molto e ci ha insegnato tanto. È stata una bellissima esperienza lavorare con lui, anche perché ci ha fatto capire che spesso la musica è come la senti da dentro e come ti viene da dentro, e non per forza deve corrispondere a generi e stili per ingraziarsi qualcuno o per compiacere altri. Giusto. Deve compiacere te stesso, e se ti realizza quello che fai, ti senti veramente pieno e soddisfatto. Quale invece la prossima canzone? Direi che, visto che è stato il singolo che ha anticipato l'uscita del disco Rabbia e Sole, potremmo partire da un brano che noi abbiamo coverizzato con il supporto degli originali autori, che conosciamo benissimo e da anni ci si stima a vicenda. Loro sono il Nucleo, questa è Meccanismi, li salutiamo sempre con grande affetto. Portato ad amare. Di nuovo in studio con Emanuele Taylor, il disco di recentissima uscita, ma ho già letto alcune recensioni. Come vi sembra la critica abbia accolto il disco e quali le più significative? Guarda, per ora splendidamente. Io sono di solito molto autocritico nei nostri confronti, nei confronti di me stesso. Non avrei mai sperato in qualcosa di così buono. C'è stato anche una soltanto recensione finora non negativissima, abbastanza negativa, però una ventina di recensioni sono assolutamente positive, alcune anche esagerate per conto mio ed estremamente eccessive dal punto di vista dei termini usati, perché insomma hai dei riferimenti usati. Ma è un classico delle recensioni a volte. Sì. Ma è che quando tu ti senti paragonato a certi mostri sacri del gota, insomma un po' il gota della musica moderna e del passato dal punto di vista del rock, fa un certo effetto e secondo me è sempre esagerato. Però guarda, estremamente soddisfatti e felici di ricevere buone parole. Una su tutte è finora anche una cosa che speriamo, incrociando le dita, vada in porto. È piaciuto moltissimo al magazine Rolling Stone il disco, e abbiamo sostenuto un'intervista per il prossimo numero. Speriamo esca, perché con quelle testate lì di solito fino in fondo non si sa mai. Però sì, assolutamente contenti e davvero, davvero un bel piacere ricevere parole così importanti in così poco tempo. Il prossimo brano per i nostri ascoltatori. Allora, direi che essendo partiti dal singolo che ha anticipato il disco, adesso che il disco è uscito possiamo anche ascoltare il singolo ufficiale che è attualmente in rotazione radiofonica su molti network nazionali, e lo stiamo promuovendo al massimo, è la tracklist, è la title track. Esatto, scusami, e quindi la canzone che dà il titolo al nostro disco, Rabbia e Sole. Torniamo tra poco per l'ultima parte di Rock Legends con Emanuele Taylor. Voi restate sempre su Radio RCS. Sorrido già di te, mentre fingo che non faccia male. Penso si possa amare e tradire, ma ciò che conta è che gli hai dato il cuore, senza rimorsi né pudore. Sorrido già di te, come il vento scaccia il temporale. E se un grido muto mi libera, da te, da me, da noi, da lui, dal vostro amore. Vivo di rabbia e sole con te, splendo di rabbia e di sole, avverto calore se torni da me. Tu come scheggia rimani sotto pelle.